si avvicina l'impensabile. Il peso dei ricordi, il rimpianto dei rimpianti, tutto si moltiplica. Tu ascolti il vento e guardi il sole nascere per l'ultima volta. Che senso ha? Che senso ha? Che senso ha? Che senso ha? Che senso ha? Esso rifrange ciò che tu hai sempre guardato con superficialità. E adesso ti sembra così chiaro da poter capire che hai sbagliato ancora, che hai sbagliato ancora. Ecco, l'impensabile proprio lì, lì fra le cose più pure. Lasciami partire. Lasciami partire, lasciami partire. Lasciami partire.